il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Biogas e biometano, due fonti di energia, tra virgolette, pulita, di cui c'è sempre maggiore richiesta. Pensiamo che a Stoccolma vengono fatti girare autobus con il biometano prodotto dalla depurazione delle acque di scarico, con beneficio per l'ambiente e anche risparmi economici, naturalmente. Ma perché, se è così semplice e conveniente, non lo si fa in modo diffuso? È realmente un'opportunità anche per chi opera nel settore agricolo nel nostro paese? E a livello ambientale, vi sono effetti negativi che lo sconsigliano oppure no? A tutte queste domande proviamo oggi a rispondere con l'aiuto della dottoressa Donatella Banzato, referente Veneto per il Consorzio Italiano Biogas. Grazie Donatella di essere con noi. Grazie a voi per l'invito, buongiorno. Ecco, io ho messo là già un po' di domande, potremmo cominciare dalla base forse, da che cos'è il biogas, cos'è il biometano e come si produce. Il biogas è uno dei prodotti finali della digestione anaerobica. La digestione anaerobica è la degradazione della sostanza organica da parte di microorganismi in condizioni di anaerobiosi. Cosa vuol dire? In condizioni di completa assenza di ossigeno. È un processo che avviene naturalmente, quindi niente di chimico, niente di artefatto, ed è un processo che ti dà la possibilità appunto di ottenere questo che è un gas denominato biogas grezzo. Il biogas grezzo che cosa contiene? Contiene principalmente metano ed altre sostanze volatili come ad esempio l'anidride carbonica. Il biogas al momento viene utilizzato tantissimo in Italia e in Europa per produrre energia elettrica ed energia termica. Nel nostro paese ha avuto una grandissima espansione alla fine del 2012, quando era previsto un buon incentivo per tutti quegli agricoltori che decidevano di produrre con prodotti dedicati oppure sottoprodotti provenienti dall'attività agricola energia elettrica da questa tecnologia. Ultimamente si parla tantissimo di biometano, certo, come una delle principali soluzioni per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione Europea per la produzione di biocarburanti. Perché dobbiamo concentrarci sul biometano come paese Italia? Biometano è diverso da biogas, o meglio è un biogas che ha... Il biometano è diverso dal biogas, diciamo che è un ulteriore sottoprodotto del biogas, perché come dicevo il biogas contiene metano ed altri componenti, mentre arriviamo a biometano a seguito di un processo di purificazione che si chiama upgrading, che non fa nient'altro che eliminare tutti questi inquinanti, chiamiamoli così, per ottenere un biometano pulito che contiene prevalentemente metano in percentuale variabile dal 95 al 98%. Questa percentuale varia dalla tecnologia che viene utilizzata appunto per purificare il biogas grezzo. Col biometano che cosa possiamo fare? Possiamo andare ad alimentare le autovetture e tutti i mezzi di trasporto, oppure possiamo immettere il biometano nella rete del gas naturale per riscaldare le nostre case e cucinare, diciamo utilizzare il biometano per cucinare all'interno delle nostre abitazioni. Il biometano ha una grandissima possibilità di espansione nel nostro paese, perché ricordiamo che noi siamo il secondo paese a livello europeo come numero di impianti biogas e come energia elettrica prodotta da biogas. Attualmente in funzione in Italia ci sono più di 1555 impianti. Abbiamo la rete la rete gas naturale più estesa al mondo e non da poco conto anche il mercato delle auto a gas circolanti nel nostro paese non è indifferente. Pensiamo che alla fine del 2015 erano 2.700.000 le auto a gas circolanti, di cui 800.000 sono a metano. Oltre a questo, l'Italia è il primo paese europeo con un numero di impianti di distribuzione a metano per auto in Europa. Solo i distributori presenti in Italia vanno a coprire all'incirca il 36% totale d'Europa. E quindi ci sono buonissime opportunità per questo settore. Il problema qual è? Il problema è purtroppo dal punto di vista normativo, legislativo, perché Stiamo ancora aspettando la pubblicazione del nuovo decreto che andrà ad incentivare il biometano in Italia e mancano ancora delle regole per l'immissione del biometano nella rete del gas naturale. Quindi prospettive ce ne sono tante, stiamo solo aspettando di avere quelle che sono le linee guida da parte della statali, diciamo, del governo, esattamente. E poi per il resto la tecnologia è pronta, biometano è l'unico biocarburante che può essere definito 100% italiano, perché è nostra la tecnologia, è nostra la materia prima che viene utilizzata per alimentare gli impianti di digestione anaerobica, è nostra la manodopera, le persone che andranno a lavorare all'interno di questo settore ovviamente saranno tutti italiani e quindi è l'unico biocarburante che potrà essere definito 100% made in Italy. Perfetto, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo fra poco per approfondire questo argomento. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. So many eyes I can see. I'm static and I can't move my feet. From the moment that you stood next to me. Feeding manic, I forgot how to speak. And there's a rhythm inside that I can't slow down. In this moment in time, no, I won't stop. Now I'll give up, my hands up for love. Torniamo in linea con il quadrifoglio di Blu Radio Veneto. Oggi stiamo parlando di biogas, in particolar modo di biometano, e lo stiamo facendo con l'aiuto della dottoressa Donatella Banzato, referente Veneto per il Consorzio Italiano Biogas e anche collaboratrice dell'Università di Padova su queste tematiche. Abbiamo visto che cos'è il biogas e anche l'importanza che può avere, come si utilizza. La parola bio di biogas sta per l'origine, che è appunto biologica, quindi da fonti naturali. Che cosa in particolar modo? C'è anche il rischio forse che ci sia qualcuno che utilizza l'agricoltura proprio per produrre materiale per realizzare biogas, oppure si utilizzano principalmente scarti, abbiamo visto reflui, oppure scarti di lavorazioni agricole? Allora, purtroppo su questo argomento ci sono tante contraddizioni, perché si tende sempre a parlare di biogas come una fonte rinnovabile che sta andando a rubare, diciamo, terreni all'agricoltura per gli scopi naturali che dovrebbe avere, cioè quello di produrre alimenti sia per gli esseri umani che per gli animali. Certo. Invece, quello che come CIB, come Consorzio Italiano Biogas, ormai da anni stiamo portando avanti è il concetto di biogas done right, cioè il biogas fatto bene. Quindi non agricoltura esclusivamente per alimentare un impianto, ma l'agricoltura con gli scopi tradizionali e il biogas inserito all'interno dell'azienda agricola per innanzitutto continuare a poter fare gli agricoltori, perché l'agricoltura in Italia negli ultimi anni ha attraversato momenti economici veramente duri, di cui spesso si tende a dimenticare. La realizzazione dell'impianto biogas con gli incentivi proposti dallo Stato ha permesso a molte aziende, a molte stalle, di rimanere aperte in momenti di crisi profonda. È possibile utilizzare prodotti di origine biologica come ad esempio il mais piuttosto che il sorgo, il triticale. La realizzazione degli impianti biogas ha permesso in alcune zone, anche qui in Veneto, di rivedere il triticale che da tempo era sparito, ha permesso di utilizzare, di realizzare secondi raccolti che da molto tempo non venivano fatti. Quindi la funzione principale dell'agricoltura come fonte per alimentare l'essere umano e alimentare gli allevamenti, gli animali, rimane sempre. Anzi, permette la realizzazione delle piante biogas di sfruttare al meglio i terreni, alternare le colture e quindi di mantenere viva quella che è l'agricoltura. Oltre a questo, negli impianti biogas possiamo utilizzare scarti di allevamento, come ad esempio i reflui zootecnici, di cui niente se ne farebbe. E possiamo utilizzare anche gli scarti dell'agricoltura, e quindi il biogas rientra perfettamente in quella che è tanto menzionata negli ultimi tempi, che è l'economia circolare. Oltre a questo, al termine del processo di digestione anaerobica otteniamo sì energia elettrica e termica, possiamo ottenere biometano, ma otteniamo anche un prodotto fondamentale per l'agricoltura che è il digestato. Sono stati fatti numerosissimi studi di come il digestato possa essere utilizzato nei terreni ed risulta un ottimo emendante e concime naturale. Quindi la sostituzione di quelli che sono i concimi chimici, che tanto bene non fanno al nostro pianeta, con quello che è il digestato, ha sicuramente anche questo un aspetto vantaggioso per l'ambiente. Ecco, siccome il nostro tempo sta per scadere, volevo farti un'ultima domanda. Sappiamo che talvolta, quando si parla di questi impianti, sorgono dei comitati contro. Per quali motivi? Cioè, ci sono anche degli effetti, diciamo, collaterali per i quali hanno senso anche queste proteste, oppure è un po' una questione di preoccupazione con poco fondamento? Purtroppo quando non si conosce un argomento, quando non sappiamo come funzionano certe cose, si tende sempre ad aver paura. L'altro aspetto è che appunto nascono tanti comitati contro che spesso non hanno nemmeno le fondamenta per attaccare il settore del biogas. Esistono numerose ricerche scientifiche che vanno a sottolineare i vantaggi degli impianti di digestione anaerobica per l'ambiente e per il terreno, mentre non esistono al momento attuale ricerche scientifiche che possono dare contro agli impianti di digestione anaerobica, come ad esempio l'insorgere di malattie o di terribili pestilenze che invece vengono portate avanti da questi comitati. Come Consorzio Italiano Biogas abbiamo vinto un progetto di ricerca a livello europeo, che è il progetto ISAAC, che serve proprio per diffondere il verbo del biogas, cioè far conoscere quali sono i vantaggi e come funziona questa tecnologia, perché come ho detto all'inizio, molto spesso quello che non conosciamo ci fa paura, quindi quello che serve al momento attuale è far conoscere il più possibile come funziona la tecnologia, quali sono i vantaggi per ovviamente le imprese agricole, ma anche per i cittadini di questa tecnologia. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Concludiamo la trasmissione con un paio di notizie. L'idrovora di Santa Margherita, storico impianto del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, sarà visitabile nell'ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione. Una settimana, che è questa settimana, di eventi alla scoperta degli impianti e delle attività dei consorzi di bonifica. Tra tutti gli eventi di cui si può trovare l'elenco nel sito internet www.anbiveneto.it, segnaliamo proprio questo, che è quello dell'imponente idrovora nei pressi di Santa Margherita nel comune di Codevigo, a poche centinaia di metri dalla statale Romea. Sabato 20 e domenica 21 maggio l'impianto idrovoro sarà aperto al pubblico e vi si potrà assistere all'accensione degli storici motori diesel. Guide d'eccezione saranno gli studenti dell'Istituto Agrario De Nicola di Piove di Sacco. Nei locali dell'impianto si potrà vedere anche la mostra fotografica La lezione del 66, cosa abbiamo imparato 50 anni dopo la grande alluvione. E per finire si chiama Terra Innova, l'app realizzata da Coldiretti per simulare la fattibilità economica della propria idea imprenditoriale in agricoltura in considerazione delle opportunità offerte dai bandi nazionali e del programma di sviluppo rurale. L'applicazione, ovviamente per smartphone e cellulari, prevede infatti una sezione specifica destinata a un modello semplificato di business plan che, a partire dalle informazioni relative alla realtà aziendale e al progetto di investimento dell'azienda, dell'impresa, verifica i principali requisiti di ammissibilità ai bandi regionali e fornisce una valutazione di massima sulla sostenibilità del progetto. Terra Innova è stata presentata ufficialmente ieri, il 15 maggio, ai giovani imprenditori di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con questo è tutto, il Quadrifoglio vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.